Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine e andremo avanti fino alle ore 21:30. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Trieste e Friuli. Comunque andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla di apertura, inizio trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle 20 alle 21:30 dai studi di Radio Onde Furlane con la conduzione da parte dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste. E ora andiamo all'ascolto invece di questa band statunitense, sempre, cioè più volte abbiamo passato delle band proprio da Portland nell'Oregon, e questi sono i Resist, band che si è formata a fine anni 80, e questo è il loro, i brani che ascoltiamo sono estratti dall'album Ignorance is Bliss, datato 1994, e loro sono i Resist. Thank you. azione multiforme per colpire il dogma dell'impotenza. La nostra generazione è cresciuta con alcune verità di base e di uso universale, le quali nella nostra epoca venivano date per scontate. L'ingiustizia fa nascere la povertà, quindi per noi è giusto colpire l'ingiustizia. Lo sfruttamento è illegale, quindi per noi è legale colpire questa illegalità. Lo slogan «Legge è il giusto dell'operaio» non era uno slogan bello, ma vuoto a livello di contenuti. Voleva dire che il giusto del lavoratore sta più in alto della legalità borghese, la quale, quando è necessario, deve essere infranta. Volevamo essere noi stessi quelli che decidono i limiti delle nostre azioni, senza dipendere da ciò che di volta in volta viene definito legale o illegale. In questo senso, l'attività della guerriglia metteva sul tavolo la questione dell'illegalità e riproponeva la vecchia tesi del movimento rivoluzionario, la combinazione tra lavoro legale e illegale. Allo stesso momento, l'altro contributo dell'azione armata, come propaganda armata, riguardava il superamento degli altri limiti, degli ostacoli nella volontà e nella mentalità che venivano imposti dal dogma depressivo dell'impotenza, da quel maledetto «non possiamo cambiare la realtà». Questa mentalità, che paralizza e viene alimentata dal fatalismo e dal servilismo, dall'insensatezza e dal recupero, ma soprattutto dalla paura dinanzi all'immagine dell'onnipotenza e della invulnerabilità del potere. La guerriglia urbana, negli anni dopo la dittatura, ha contribuito in modo determinante nell'attacco contro questa immagine creata in un modo così magistrale. Allora, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics. E queste erano parole di Dimitris Kofuntinas e sono tratte da un libro edito da Pi Greco, di cui vorrei così parlare un po' stasera, e naturalmente avendo noi tutte e tutti qua a Zardins Magnetics, nella mente e nel cuore Alfredo e le sue condizioni, e anche così solidarizzando con altri compagni, Agnese, Juan e Massimo nello specifico. Vabbè, poi parleremo della loro vicenda magari in un altro momento, ma ci tenevo a dare solidarietà oggi, perché oggi ci sono state delle condanne. Allora, dicevo, Dimitris Kofuntinas. Dimitri Kofuntinas è un rivoluzionario, è del 1958, è greco, ed è stato praticamente un componente importante dell'organizzazione rivoluzionaria 17 novembre, organizzazione che è nata nel 1975 in Grecia ed è stata attiva fino al 2002. 2002 tra l'altro è l'anno di arresto di Dimitris Kofuntinas. L'organizzazione 17 novembre aveva assunto questo nome ispirandosi alla strage di studenti che era stata perpetrata da appunto il 17 novembre del 1973 dal regime dei colonnelli nel corso di una rivolta studentesca. E Dimitris è stato condannato a 11 ergastoli per la sua militanza rivoluzionaria ed è in carcere dal 2002. Questi circa 20 anni di carcerazione li ha passati praticamente per la maggior parte in una cella sotterranea a Korydallos, non nel carcere di Korydallos. Nonostante questa condizione, insomma, estrema, non ha mai smesso di scrivere, riflettere, tenere i contatti e il dialogo con chi vuole appunto cimentarsi con il cambiamento della realtà, con il cambiamento rivoluzionario della realtà. E allora, noi abbiamo come assemblea nel 2021, abbiamo fatto un presidio in solidarietà a Dimitris Kofuntinas a Trieste davanti all'ambasciata della Grecia. Che cosa era successo in quel momento? Allora, l'8 di gennaio del 2021 Dimitris ha iniziato uno sciopero della fame, in quanto praticamente alla fine del 2020 il governo greco di Nea Dimokratia di Mitsotakis ha fatto una riforma del sistema penitenziario nazionale che peggiorava le condizioni detentive. Nello specifico, praticamente i condannati per terrorismo non possono più accedere alle carceri rurali, che sono istituti più aperti, meno costrittivi, meno afflittivi, e ai quali di solito hanno accesso i prigionieri con lunghe prigionie, insomma. E in base quindi a questa riforma allucinante, Dimitris Kofuntinas è stato trasferito dal carcere rurale di Kassevizia, però ha un carcere di massima sicurezza, particolarmente duro, insomma efferato, il carcere di Domokos. Però in base a questa legge di Mitsotakis, lui avrebbe dovuto ritornare a Korydallos, che pur essendo un carcere appunto afflittivo, è un carcere dove ci sono tantissimi politici, quindi almeno c'era questo aspetto, insomma, di vicinanza con i compagni. Siccome questo trasferimento forzato a Domokos è stata una cosa molto grave, insomma, Dimitris ha deciso di intraprendere uno sciopero della fame su questa faccenda. Lo sciopero della fame era per il trasferimento a Korydallos. Lui è rimasto in sciopero della fame per 3 mesi abbondanti, e appunto venerdì 12 febbraio 2021 c'era stata questa giornata di mobilitazione internazionale per lui, alla quale anche noi abbiamo aderito. Allora, una cosa importante è che da questo, diciamo, in solidarietà a Dimitris Kofuntinas ci sono state tantissime mobilitazioni in Grecia, mobilitazioni veramente imponenti con manifestazioni di migliaia e migliaia di persone. E tra l'altro, durante questo periodo di lotta del compagno, lo Stato greco ha varato anche una legge repressiva nei confronti degli universitari, degli studenti universitari, in quanto il governo ha istituito praticamente un corpo di polizia specifico per operare all'interno dell'università, in modo da tagliare le gambe sul nascere, diciamo, ai movimenti. Sì, nel 2021 ricordiamo che si era ancora in piena gestione securitaria e repressiva della pandemia, e questo ha reso difficile la creazione di un movimento dinamico di solidarietà. Però, nonostante ciò, in Grecia ci sono stati tantissimi presidi e manifestazioni, ad esempio all'Ordine dei Medici, all'Ordine degli Avvocati, alla sede del Sindacato dei Giornalisti, all'Ambasciata degli Stati Uniti, quindi diciamo che è stato anche alzato il tiro rispetto a queste presenze, addirittura all'abitazione della Presidente della Repubblica Ellenica. E Atene è stata una, anche altre città, ma Atene in particolare è stato centro di molte mobilitazioni e anche di molta repressione, con polizia antisommossa, forze di reazione rapida, cannoni ad acqua, droni, eccetera. Però nonostante questo le lotte non si sono fermate, quindi sì, questo è una cosa importante. Difatti, dopo appunto questi quasi 3 mesi di sciopero della fame, Dimitris, che nel frattempo era andato anche in terapia intensiva perché già partiva da una condizione di salute molto precaria, ha accettato, diciamo, la sollecitazione dei compagni di smettere lo sciopero della fame, in quanto ha detto: ciò che ha innescato la mia lotta, diciamo, e quindi tutte queste mobilitazioni diffuse di piazza, è più importante, diciamo, assume più importanza, quindi accetto di smetterla con lo sciopero della fame. E allora, vabbè, poi magari poi facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo. Comunque, il pezzetto di testo che vi ho letto all'inizio è tratto appunto da questo libro che si intitola L'organizzazione rivoluzionaria 17 novembre, 13 risposte dal carcere, che è appunto un libro di un paio d'anni fa, di un anno e mezzo fa circa, dell'editore Pi Greco, che poi, insomma, magari del quale approfondiremo un po', sì, un po' di cosa si tratta. We'll be right back. Sì, ritorniamo allora alle, così, alle parole e alla storia di Dimitris Kofuntinas, però prima, visto che parlavamo di università, così è importante dire che anche in, nello Stato italiano ci sono alcune università che occupate appunto in solidarietà ad Alfredo contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. E Roma, abbiamo lettere La Sapienza, Napoli, la sede dell'Orientale, dell'Ateneo di Napoli, e anche Milano, specificamente è stata occupata proprio ieri a Milano la sede Festa del Perdono, con questo nome bizzarro, praticamente gli studenti di Milano dicono insomma che a fronte di una messa in scena mediatica che strumentalizza il corpo di Alfredo per giochi interni alla politica istituzionale, instaurando un clima di terrore, l'occupazione dell'università dà corpo invece ad un dibattito altrimenti solo fittizio e crea la possibilità fisica per tutta la città di Milano di incontrarsi, conoscersi e allargare il fronte della mobilitazione in vista del corteo di sabato 11 che ci sarà appunto a Milano. Allora, ritorniamo a Dimitris Kofuntinas. Dicevo, questo libro, L'organizzazione rivoluzionaria del 17 novembre, 13 risposte dal carcere, è proprio a questo andamento dialogico, diciamo, c'è un intervistatore, per così dire, che si chiama Tassos Pappas e che pone delle domande alle quali in maniera diffusa il compagno Dimitris risponde. Queste domande toccano praticamente tantissimi argomenti attinenti alla militanza rivoluzionaria. E tra l'altro, ecco, il libro ha anche una bella introduzione di Pasquale Abatangelo, che è l'autore di Correvo pensando ad Anna, del quale abbiamo parlato anche a Zardis Magnetics. Sì, praticamente. Sì, insomma, ci sono tantissimi argomenti, dicevo. Vi dico qualche titolo per dare l'idea. Il passaggio del Rubicone ha sempre un costo, appunto sul prezzo che si paga facendo militanza politica. Azione multiforme per colpire il dogma dell'impotenza, del quale ho letto un pezzettino. Sempre quando la sinistra si è conciliata con la destra, noi abbiamo perduto. Capitalismo e democrazia sono concetti incompatibili. Anche i nostri mezzi sono il nostro fine. E vabbè, e poi niente in vano, tutto continua, eccetera. E poi c'è un capitolo del quale vorrei leggervi un pezzo, che è sulla relazione tra detenuti comuni e detenuti politici. Allora, ci dice Dimitris Kofuntinas: in tutti questi anni di carcere, solo durante gli ultimi, ho sentito l'aria delle sezioni comuni del carcere, e questo solo per pochi mesi, in una piccola sezione di massima sicurezza al carcere di Domokos. Dopo 13 anni, lontano dall'isolamento, perché questo, scusate, è un articolo, è una risposta che si riferisce a qualche anno fa. Dopo 13 anni, lontano dall'isolamento della cella sotterranea, mi sono avvicinato al boato continuo, interrotto improvvisamente da grida, urli, litigi, un mormorio che non si ferma mai, al quale viene aggiunta la voce piatta e fredda dai megafoni che fanno pensare a un lager, e il colpo notturno della guardia con il martello sulle sbarre della cella. Ti trovi ad aspettare la notte per avere un po' di tranquillità e solitudine. La barbarie del carcere unisce i detenuti e allo stesso tempo li divide. Dipende dal modo in cui ogni carcerato si pone dinanzi a essa. Da una parte ci sono quelle situazioni dovute alla stratificazione di classe nelle carceri, relazioni gerarchiche molto marcate tra i detenuti, raggruppamenti nazionali, eccetera. Dall'altra, la natura e le forme delle rivendicazioni, il loro carattere spesso, tra virgolette, riformista, i codici dei detenuti e il percorso che può portare alla loro partecipazione alle lotte. Tutto ciò mette alla prova il pensiero e l'azione dei detenuti politici, però, in ultima istanza, l'unica divisione tra detenuti che esiste è quella tra chi non combatte e chi è in lotta. Chi continua la tradizione di lotta, quella che ha portato a tutti questi cambiamenti, tradotti nei codici penitenziari, ma anche in un modo non scritto, che hanno contribuito al miglioramento della situazione dentro le carceri. Tutte queste lotte, l'organizzazione della rabbia dei detenuti, la loro trasformazione da oggetti di disciplinamento a soggetti in lotta, sono di per sé delle attività politiche. Inoltre, tramite questo processo di lotta possono essere politicizzati i più sensibili, quelli tra i detenuti comuni che sono i portatori più coerenti di una coscienza e dei valori popolari. Però non tutti quelli che agiscono politicamente sono anche dei detenuti politici. Dall'altra parte, quei detenuti che sono stati condannati a un processo politico, però non partecipano alle lotte nelle carceri, perdono l'identità del detenuto politico, anche se di solito vi hanno già rinunciato nella fase dell'arresto, del processo e durante la loro detenzione, molto prima dell'arrivo del momento della lotta in carcere, dove viene formalizzata questa netta separazione. Questo perché i detenuti politici non possono fare altro che far parte della prima linea delle lotte nelle carceri. In questo sforzo comune si incontrano con detenuti sociali, con i cosiddetti comuni, che possono tenere una condotta esemplare e coraggiosa e di solito pagano caro il prezzo di questo loro comportamento. Però ognuno entra nella lotta con la sua identità e i detenuti politici rivoluzionari conservano e difendono la loro identità. Una cosa che viene riconosciuta prima di tutto dagli stessi detenuti comuni. Come aveva brevemente descritto con una espressione snella e sintetica della saggezza popolare uno dei detenuti comuni tra quelli che ho conosciuto, voi siete tutta un'altra storia, quello che fate non lo fate per voi stessi. Ha sottolineato così con poche parole il nostro altruismo e il nostro obiettivo politico. Anche quei detenuti comuni che magari non fanno molti pensieri, ne sanno molte cose sulla storia delle organizzazioni e neanche hanno un'immagine chiara della società futura senza classi, oppure molto più banalmente non si interessano di politica, anche questi detenuti, dinanzi a questi tipi così strani per i loro gusti, che sono i detenuti politici, e davanti ai loro codici, portano rispetto. Così è sempre successo qui in Grecia, dove per almeno un secolo intero non c'è stato alcun periodo senza la presenza di detenuti politici nelle carceri. Dai primi anni del che fino alla dittatura di Metaxas nel 1936, passando per la resistenza e la guerra civile, arrivando alla giunta militare dal 1967 al 74, ma anche dopo la caduta della dittatura, durante il periodo di transizione della Metapolitefsi, quando la sinistra ufficiale ha smesso di produrre, tra virgolette, detenuti politici, fino a quando era alta la dinamica e l'azione rivoluzionaria, abbiamo avuto anche compagni in carcere che con la loro condotta, il loro atteggiamento e le loro lotte hanno mantenuto viva una specie di memoria collettiva del carcere, una memoria che viene tramandata tra i detenuti da una generazione all'altra e con essa viene mantenuto vivo anche questo immaginario che porta questo tipo di rispetto. Dall'altra parte, e nello stesso tempo, quello che c'è sempre stato da parte dello Stato, dei poteri e degli apparati ideologici, è il tentativo insistente e duraturo di accomunare i detenuti politici con quelli comuni, al fine però di identificare l'azione politica per la liberazione sociale con quella azione criminale che viene rivolta contro la società. Questa equazione, ovvero rivoluzionario uguale criminale, viene tentata già dagli albori del capitalismo. Possiamo pensare a Utopia di Thomas More. Ai giorni nostri la tattica esercitata è quella che punta alla criminalizzazione della contestazione sociale. Tentano la diffamazione delle idee rivoluzionarie per poter strappare il prestigio etico dal detenuto politico che si trova in carcere a causa delle sue idee. Ciò che fanno tremare sono le idee rivoluzionarie. Dalle prime leggi del 24 e del 29 con le quali vengono incarcerati o confinati quelli che tentano la realizzazione delle idee che hanno come scopo evidente la sovversione con dei mezzi violenti del regime sociale vigente e reclutano anche altri alle idee rivoluzionarie, fino ai tempi della legge 509 e del terzo emendamento del 46, lo Stato definisce il suo nemico interno, il rivoluzionario che viene incarcerato. Dopo la fine della giunta militare, le nuove leggi 509 del 78, del 1990 e del 2001-2002 vengono battezzate ormai antiterroristiche e identificano l'azione armata in generale, ogni espressione radicale, con l'attività della criminalità comune. Il loro scopo è quello di far sparire l'identità dei rivoluzionari prigionieri. In Grecia non esistono dei prigionieri politici, ripete e insiste il potere in tutte le sue forme, da quella odierna di sinistra, di Siriza, fino a quella vecchia dell'estrema destra di Averhof. Così diceva anche la Thatcher, e come risposta ai prigionieri membri dell'IRA iniziarono il famoso sciopero della fame a oltranza, durante il quale morirono, rivendicando la loro identità, Bobby Sands insieme agli altri 8 compagni. Il potere non ha mai riconosciuto i rivoluzionari, e in particolare quelli armati, come dei politici. Al contrario, costantemente ha tentato di de-ideologizzare la loro attività e diffamarli come dei demoni, criminali sociali, banditi, ladri, rapinatori e terroristi. Ai giorni nostri, la guerra ideologica dei poteri contro l'azione rivoluzionaria combattente si sostanzia nel tentativo di identificare la sua attività con quella della criminalità comune. Il potere riserva a questi detenuti politici, che non esistono, un trattamento speciale, processi speciali, condizioni di detenzione e trattamento speciale in carcere. Questi inesistenti esisteranno soltanto se smetteranno di esistere come tali, ovvero soltanto se esprimeranno chiaramente la loro dissociazione dalle loro stesse idee, se si pentiranno. Dimitris Kofuntinas. Bene, un saluto a tutte e a tutti, anche da parte mia, per questa puntata del 9 febbraio, di giovedì 9 febbraio 2023. Sì, e dicevo, del 9 febbraio 2023. Come sempre andiamo in diretta dagli studi di Via Volturno a Udine. Scusate, mi sto incasinando con i microfoni, ma adesso ci siamo. E, sono quindi le 20:41 circa di questo giovedì sera. Questo secondo blocco di trasmissione, io volevo prima di tutto ricordarvi, oppure annunciarvi, che sono disponibili un foglio, diciamo, di 8 pagine che si chiama Note di fase, ed è curato dai compagni di Antitesi, è uscito a gennaio 2023. Antitesi, se vi ricordate, è una pubblicazione a cura appunto del collettivo, di un collettivo diciamo comunista, e con queste note di fase essi ed esse intendono contribuire in maniera più agile rispetto alla rivista al dibattito tra compagni e compagni sugli avvenimenti in corso, così dice diciamo il sottotitolo. Io ve lo segnalo perché sì, in effetti è una versione molto più stringata, molto più agile, molto più diretta di quelle considerazioni che vengono di solito fatte, diciamo, in maniera, mi sembra, semestrale o trimestrale, non mi ricordo, da Antitesi. In particolare su questo opuscolo è possibile, cioè vi permette di dare, come dicevo, un quadro utile, diciamo, della situazione anche a livello economico, cose magari che noi spesso volentieri saltiamo a pie pari, abbiamo meno, diciamo, dimestichezza con queste questioni e abbiamo anche più confusione, diciamo, sono confusionari su queste vicende. Comunque in particolare, diciamo, è bene tenere presente che è in atto una tensione, diciamo, alla guerra tra le varie realtà, diciamo, potenze capitaliste, e tra le varie potenze ovviamente tra quella militare più aggressiva, che sono gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti stanno tutelando il loro mercato interno già dall'ultima crisi finanziaria scoppiata con la bolla dei mutui subprime nel 2008. Si sono dati delle leggi, diciamo, protezionistiche di tutela, diciamo, le loro disponibilità finanziarie, come la Dodd-Frank Act. Ultimamente addirittura, cioè, questi sono dispositivi che permettono di rendersi conto di quello che succede. Gli Stati Uniti stanno cercando di mettere in ginocchio l'UE, l'Unione Europea, e in particolare si sono dati quest'altro Inflation Reduction Act, si sono dati questo strumento, diciamo, legislativo, che tutela l'industria statunitense per si parte da 369 miliardi di dollari di aiuti all'industria statunitense per questa, sulla, diciamo, partire da questo. Sono le stesse industrie europee che diventano per loro diventa una cosa desiderabile trasferirsi oltreoceano, perché se viene offerto tutta questa valanga di denaro per mettere, diciamo, continuare la produzione purché si stia negli Stati Uniti, tanto vale andarci là, chi se ne frega del lavoro, insomma, che viene, in cui sono impegnati, diciamo, le persone che abitano invece da questa parte dell'oceano, eccetera eccetera. Ci sono altre cose invece che sulle quali normalmente ovviamente ci lasciano perplesse, ma insomma vi ricordo, ecco, che potete richiedere questa pubblicazione, le note di fase della rivista Antitesi, che sono le analisi e strumenti per la rivoluzione proletaria. Le trovate su Facebook, ovviamente, diciamo, l'Antitesi come gruppo lo trovate su Facebook, e c'è anche un canale Telegram. È inclinata. Ho capito. C'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi, schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sto andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinandoli? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei mi sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Vada. Mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Okay. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. Ve lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E te vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Ma salga sulla prua della nave tramite la biscacina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Comandante, il comandante in seconda. Come? Siamo al comandante in seconda qui. Siamo salite tutte e due allora. Tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? E Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Cristini. Lei è il suo secondo, salite a bordo, ora, è chiaro? Ecco, di nuovo in diretta qui a Zardins Magnetics. Abbiamo mandato questo che era l'audio della famosa famigerata telefonata del comandante della capitaneria De Falco, si chiamava, e il comandante Schettino, perché volevo un attimo prendermi 5 minuti per parlare di questo paese che è l'Italia. Perché ormai qui quelli che dovrebbero fare le autorità fanno un po' quello che vogliono, vanno a vedere il festival della canzone, a sentire i giullari farneticare sulle costituzioni, poi ci sono altri, la seconda autorità dello Stato che va a rendere omaggio non si sa cosa, perché a Basovizza sanno anche i muri che era una miniera quella lì, quindi le pagliacciate continuano. Ecco, quindi siccome questi qui fanno quello che gli pare, a noi ci tocca fare quelli che mettono in ordine invece le robe. L'Italia è il paese del naufragio della Costa Concordia. La Costa Concordia era una nave da crociera e il 13 gennaio 2012, per una manovra errata, punto primo, ma soprattutto perché il comandante ha minimizzato l'incidente dialogando con i soccorsi, dicendo fandonie ai passeggeri, quindi sono stati causati 32 morti, 110 feriti, soprattutto erano persone che erano state inviate dal lato sbagliato della nave che si stava già immergendo e non hanno più potuto risalire la china, diciamo, o altri che addirittura sono affogati nel mare perché si erano buttati in acqua e con il gorgo creato dal fondamento della nave non hanno avuto scampo. Invece, dicevo, l'abbandono, il messaggio di abbandono della nave, ricordiamo ste robe così perché siamo smemorati in questo paese disgraziato, quindi ricordiamole, no, ste cose. Sono passati 10 anni, ero 11 anni. L'abbandono della nave viene dato dal comandante un'ora dopo l'impatto, perché tergiversa, dice che ha recuperato, dice queste balle qua, che gli stava dicendo anche adesso il telefono lì con l'altro, col comandante della capitaneria. E praticamente le persone che vengono messe in salvo, i passeggeri, per fortuna, cioè per fortuna, per grazie a soprattutto membri dell'equipaggio, non al comandante che era già appunto sugli scogli, in salvo lui, e anche da un, tra l'altro dal vice sindaco dell'isola del Giglio, che era, siccome era responsabile della protezione civile, prende un gommone, fa quello che può, come sempre in questo paese si salvi chi può, diciamo. Sono questi eventi emblematici, no? Questa qua era una strage, anche se non l'hanno chiamata così, è andata a finire, sì, che gli è andato, vabbè, c'è stato il processo, è andato fino in Cassazione, eccetera eccetera. Schettino è a Rebibbia adesso, indifferente, noi siamo quelli che sono contro tutte le prigioni, ma comunque era per dire questa vicenda emblematica. Un'altra vicenda emblematica di questo paese è il crollo del Ponte Morandi. Il 14 agosto 2018, quindi sono 6 anni dopo, cambiati governi, cambiati ministri, cambiati scenari, però lo stesso succede questa, diciamo, intero, sono 250 metri di sezione di questo viadotto dell'autostrada di Genova che crolla, e quindi collassa praticamente insieme a un pilone, e provocando 43 morti, che sono vetture che praticamente sì, cadono nel vuoto, e in più c'erano anche degli operai sotto il pilone, anche di qualche ditta. Tutto questo appunto per motivi ancora in corso di valutazione, nonostante che siano passati 5 anni, strano, no? Si dirà, qualcuno dirà, e ancora, cioè, c'è stata la prima udienza appena a luglio 2022, tutto molto molto con inerzia, questo discorso qua di accertare chi, perché, come è successa sta, che non, questa non è una disgrazia, è un'altra strage, diciamo, perché non è stata fatta evidentemente manutenzione, no? Su, cioè, ovvio, questo qua è il segreto di Pulcinella. Un'altra cosa che non è una strage, però secondo me c'entra con il discorso che volevo fare io, è che l'Italia è il paese che reclama verità e giustizia per Giulio Regeni. Giulio Regeni, ricercatore friulano, rapito al Cairo il 25 gennaio 2016, trovato senza vita 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una, diciamo, di una struttura dei servizi segreti egiziani, non si sa bene perché, cioè, si trovava là per fare delle ricerche sul movimento, diciamo, di opposizione al Sisi, però non è chiaro, tante cose non sono chiare. Io adesso non volevo avventurarmi su questa, su quest'altra tragica vicenda qui, ma era per dire che comunque finché la cosa succede lontano, sono tutti pronti a mettere la bandiera fuori, con scritto verità giustizia per Giulio Regeni, quello, insomma, sono cose che vengono semplici, parlare delle ingiustizie che succedono lontano, sul parlare delle cose rognose che invece succedono in casa è sempre un po' un problema, che non si vuole affrontare. Piemont. Ascoltai le mie ultime speraulis. Ascoltai tutti gli altri. Conseils, directives, sindacats, guviars da tiare. E altri potenzi di potere. Da urdi che i cranius trattati. Fatti da chi cessos per diventare parons di se che non le vostri. Per vendi la tiare sotto dai pis, non c'è mona suz. Ascoltate! Se che di Dival, per duci omps, in qualunque look. Ripeti! Per duci, nessun escludut. Gratis, per duci che pain. Gratis, per duci che pain in dolor. Spauritant per fausse entrata al team dal vostri quart per sempre ta miarde volete stare lì per sempre allora ascoltate gli ultimi speraulis di Hassan Sabah. Ascoltate cialite o cagate per sempre. Per fausse entrata al team. Spaurit Dutch. Per fausse entrata al quart. Ta miarde. Us lo dici io. Le peraule. Le peraule. Il tu. Dal principi erano le peraule. Usa spaurit duc, ta miarde par sempre. Light fur par sempre. Light fur par sempre da peraule temporal. Light fur par sempre da peraule corporal. Light fur par sempre da peraule di miarde. Duc fur dal timp. E tal spazi. Per sempre. Non le noia deve pure tal spazi. Non le noia deve pure tal spazi. Di nuovo in diretta qui a Zardins Magnetics del 9 febbraio, di giovedì 9 febbraio. Prima di continuare con le considerazioni che, cioè di concludere le considerazioni che volevo fare sul discorso della strage, delle stragi, volevo anche cogliere l'occasione per salutare i compagni e le compagne ispanici che ci hanno scritto alla nostra casella liberetutti@autistiche.org e che hanno tradotto il comunicato che avevamo predisposto, diciamo, che è stato pubblicato su vari siti, e l'hanno tradotto in spagnolo, giustamente dicendo che è anche una, diciamo, beneficio fra virgolette del tutta la vicenda di Alfredo, questa che in tutto il mondo stanno un po' scoprendo quello che succede in questo paese disgraziato. Quindi continuiamo questo discorso che stavo facendo, L'Italia è ultimamente, diciamo, per venire più ai giorni nostri, l'Italia è il paese che detta regolamenti sul salvataggio degli immigrati in mare, cioè prende e scrive decreti legge, non si sa su che, cioè di natura giuridica ignota, questi codici di condotta, pontifica sul diritto della navigazione, che è materia ovviamente, diciamo, quella dove per antonomasia le cose devono essere condivise, perché il mare è quello che, diciamo, è una dimensione per antonomasia, ripeto, che è una porta sull'alterità, quantomeno così detto in generale. Ecco, invece qua si mettono paletti, si stabiliscono d'autorità, diciamo, come amministrativamente si amministra anche qui le stragi, perché poi quello che succede per effetto di questi rallentamenti, di queste burocratizzazioni, di queste procedure, di queste ordini, di queste sanzioni amministrative, e per effetto di questo la gente intanto non viene soccorsa, gli immigrati non vengono soccorsi e soccombono, diciamo, nelle profondità del Mar Mediterraneo. Mentre tutto questo succede, insomma, mentre dei mitomani che sono ai vertici dello Stato si cercano di convincerci che l'Italia è un paese importante, che nessuno può ignorare l'Italia, questi soliti discorsi da così di plastica, e non che qua si fa, non è che vogliamo fare sterofilia, però bisogna anche ridimensionare, cioè avere un po' di senso della realtà, no? Quando si è in mezzo a questi flussi qua di mediatici. Intanto, come dicevo prima, insomma, in Spagna, in questo momento, per esempio a Siviglia, Madrid, Barcellona, Pamplona, in Spagna, a Città del Messico, a Valparaíso in Cile, ovviamente in Cile c'è una presenza anarchica consistente. E naturalmente in Germania, in Francia, sia a Marsiglia sia a Saint-Étienne, ovunque, insomma, un po' mezzo mondo, davanti alle ambasciate, ai consolati d'Italia, si manifesta la vergogna per il regime, per quello che è un regime detentivo medievale, quello che, di cui stiamo parlando, del 41 bis. Il carcere per i seppelliti vivi, per i nemici dello Stato, quindi un primo autogol, diciamo, una cosa che ovviamente leggendo i media italiani non emergerà mai, ma comunque questa è la realtà. Un altro dato di realtà è che gli scritti raccolti in Quale Internazionale di Alfredo Cospito sono tradotti sia in spagnolo, se in inglese siamo arrivati alla seconda edizione, quindi un bel po' di persone possono recepire le posizioni proposte sia lettori sia lettrici, insomma, britannici, statunitensi, canadesi, australiani, argentini, cileni, messicani, filippini, facciamo gli elenchi come il ministro delle infrastrutture qua. La cosa importante, veramente vado a concludere, una cosa importante che ha così detto anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che difende Alfredo Cospito, che sta conducendo una battaglia giudiziaria, sul piano giudiziario, è che questa volta insomma si sta giocando un gioco serio che lascerà il segno, insomma, e tra quando questi tempi bui e cupi saranno trascorsi non si potrà più dire nessuno sapeva quello che succede e che stava succedendo, perché ormai la cosa è scoppiata. La bolla è scoppiata, io direi che di fermarmi qua, perché abbiamo previsto un altro blocco di trasmissione, quindi i minuti scorrono, è il momento di passare ad altro. Da bene, vieni, questa è l'ultima volta che siamo insieme e parliamo di noi. Poi sarà quel che sarà. Bevo e mi sembra veleno. Se ne andrai, vorrei che tu adesso dicessi io ho scherzato, ma sembra che non sei già qui. Vieni che ti offro da bere. Siamo, allora introduciamo questo ultimo blocco di trasmissione e avremo in linea al telefono un compagno, nostro compagno di Trieste, e per parlare, approfondire un attimo, ritornare al discorso che avevamo accennato qualche puntata fa sulla situazione detentiva di Alessio Attanasio, un nostro corrispondente, diciamo, con la nostra casella postale. Ci sei? Sì, ciao a tutti. Ciao. Ecco. Sì, praticamente l'altra volta si era arrivati all'episodio grave del tentato strangolamento, dell'aggressione del 2 esatto. gennaio a Alessio Attanasio nel carcere di Oristano, e c'è stata una novità grave anche questa, il suo isolamento, cioè è stato posto in regime di isolamento dal 25 gennaio. Poi non sappiamo se ancora è sottoposto all'isolamento, sono notizie fresche, non ne abbiamo. E questo isolamento è una ritorsione per aver denunciato i fatti del 2 gennaio, insomma. Penso che lui abbia fatto anche una denuncia, insomma, oltre che pubblica anche legale, e da quello che ha fatto trapelare lui fuori dal carcere, insomma, i secondini, la direzione del carcere vuole arrivare a un ritrattamento, insomma, a una ritrattazione delle accuse. E ecco, questa è un po' la novità. grave, ricordiamo un po' gli ultimi eventi. Beh, lui ci ha scritto, sì, per denunciare da quando è stato portato a Oristano, è stato rinchiuso a Oristano a seguito di una misura cautelare per un fatto di decenni fa, tra l'altro lui è accusato da un pentito, esatto, che era uscito per un breve periodo lo scorso anno, dopo 20 anni di galera in 41 bis per lo più, è stato accusato da un pentito di un omicidio avvenuto decenni fa e si trova oggi di nuovo in carcere, non più in 41 bis, però in condizioni, insomma, comunque di vessazione continua. E lui, da quando è stato rinchiuso ad Oristano, ci ha denunciato prima il fatto che ci sono continui blocchi e insomma censure, cioè, come dire, intromissioni nella corrispondenza informatica che lui ha col proprio legale da parte della direzione del carcere, e fatto che lui ha denunciato anche il Garante Nazionale dei Detenuti, sì. E poi c'è questa negazione di una sedia adatta alla patologia della lombosciatalgia di cui Alessio soffre, insomma possiamo immaginare che sia una condizione anche di sofferenza questa, essere rinchiuso in cella e avere anche questo problema, e poi siamo arrivati all'aggressione, insomma all'isolamento, ecco, alla ritorsione, alla rappresaglia dell'isolamento, che insomma è una cosa tipica che avviene quando un detenuto si ribella, un detenuto non sta alle regole che gli vengono imposti, ecco, nelle carceri italiane, insomma. Tra l'altro anche con il blindo chiuso, no? Esatto. Denunciava il fatto dell'isolamento con il blindo chiuso, che tra l'altro tantissime, cioè lui ha fatto parecchie lotte sul discorso del blindo chiuso, soffrendo anche di claustrofobia, sì, chiaramente dopo, esatto, con l'esperienza che ha avuto, sì. C'è anche sto discorso che sì, lui soffre di claustrofobia, insomma, è una situazione abbastanza grave. E, insomma, lui ha chiesto all'assemblea permanente contro il carcere e la repressione, all'associazione Senza Sbarre, che è il titolo con cui noi abbiamo la casella postale, insomma, diffondere queste notizie, sì. Quindi insomma l'intervento oggi via radio fa parte di questo, insomma invitiamo tutti e tutte, come già stato fatto nella scorsa puntata, a scriverli, insomma, quindi Alessio Attanasio, località su Pedriaxiu, 09170 Massama, Oristano. Quindi Alessio Attanasio, località su Pedriaxiu, 09170 Massama, Oristano. Comunque sui siti di movimento tipo Il Rovescio si trova il suo indirizzo, ecco, certo. Se qualcuno vuole avere una conferma in più, per scriverli, invitiamo, poi probabilmente adesso non so bene il regime in cui, cioè in che forma legale o illegale anche è stato posto all'isolamento, che magari potrebbe la posta potrebbe essere anche soggetta a censure, a blocchi, però insomma comunque noi invitiamo a scriverli, ecco, in solidarietà. Giusto. Sicuro, sì. Bene. Su Alessio, insomma, noi abbiamo anche un processo aver dato voce a quanto lui ci denunciava dal carcere di Tolmezzo, e insomma abbiamo avuto l'udienza il 30 gennaio, ci sarà la prossima udienza il 13 marzo, e verrà anche a testimoniare Alessio Attanasio. Noi ci teniamo particolarmente perché noi, insomma, due compagni, un compagno e una compagna hanno questo procedimento in corso, questo processo in corso, e ci teniamo alla sua testimonianza perché insomma noi abbiamo dato voce a quanto lui ci diceva sulla diffusione del Covid nel carcere di Tolmezzo e soprattutto nel tardo estate, nell'autunno del 2020, tutto corrisponde poi a quanto la cronaca ci ha riportato. Ricordiamo la morte di Mario Cocco Trovato, 71 anni, detenuto nel carcere di Tolmezzo, che è morto di Covid. Non sono molti di Covid, sono ammalati molti nel carcere, lì c'è stato un morto, 71 anni, tra l'altro con appena rifiutata un'istanza per la revoca del carcere rispetto ai domiciliari, perché sia messo al regime dei domiciliari, appena proprio per la diffusione del Covid nelle galere, in particolare in quella galera, e poi ha trovato la morte, ecco. Quindi quando ci riferiva Alessio Tanasio è stato completamente confermato, ma dai fatti, anche da fatti tragici come questo, però noi siamo sotto processo e la direttrice ha pensato bene di querelarci per aver fatto sapere la verità su quello che accadeva in quel carcere a 41 bis. Sì, appunto, no, è giusto ricordare questa cosa qua. Stasera, tra l'altro, abbiamo anche ricordato sempre quel momento là, quel inverno 2021, appunto, in cui si era andati anche a manifestare davanti al consolato greco a Trieste per lo sciopero della fame di Kufuntinas. Era lo stesso momento, appunto, in cui era in atto questa mobilitazione sia a Tolmezzo sul discorso, appunto, della gestione della pandemia, sia come ricorderanno chi ci ascolta, insomma, sia anche al sezione femminile del Coroneo, dove era scoppiò una specie di mobilitazione anche là, con delle richieste precise, la direzione era tutto lo stesso, era solo per dire, era lo stesso contesto, ecco, tutto qua. Sì, sul discorso dell'isolamento a cui è sottoposto Atanasio, lui non è più in 41 bis, grazie alla lotta di Cospito, ai solidali all'esterno, lotta di Cospito, degli altri prigionieri e prigioniere anarchiche, il 41 bis è emerso come realtà di tortura nelle carceri italiane, e volevo ricordare che però le forme di isolamento nelle carceri sono molte, sono l'articolo 14 bis che può prevedere l'isolamento a regime di sorveglianza particolare, l'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario, entrambi prevedono l'isolamento come forma punitiva per i detenuti. Quindi non c'è solo il 41 bis, ma c'è una realtà molto più variegata, purtroppo, di tortura. Volevo ricordare come spesso le morti dei detenuti corrispondono a internamenti in celle di isolamento. In particolare Leudy Gomez, no? Nell'ultima vicenda dell'ultimo, dicono suicidio, morto di Stato, ammazzato dallo Stato nel carcere di Udine, proprio perché era stato rinchiuso in cella di isolamento nel novembre del scorso novembre, novembre del 2022, e volevo ricordare anche Tarzan Selimovic, a proposito del Coroneo, nel 2018, anche lui morto in cella di isolamento. Tra l'altro la famiglia di Tarzan Selimovic ha denunciato le autorità del carcere, a settembre avevano un'udienza, poi non so come, perché si sono opposti all'archiviazione del caso. Come al solito questi omicidi di Stato vengono archiviati e poi la stampa locale non ha dato più notizie di questo, però è importante ricordare come le forme assassine di isolamento nelle carceri italiane sono molte e colpiscono sia il prigioniero straniero anarchico rivoluzionario, sia anche detenuti che sono in carcere per i motivi più vari e che insomma ci lasciano la pelle e la vita in queste celle di isolamento, in queste pratiche che alla fine sono di privazione sensoriale, tortura. Possiamo immaginare una persona che è già in carcere, di solito vengono messe persone che hanno dei problemi psicologici in quel momento, come reagisce in queste celle, in questo ambiente. Spesso si arriva al suicidio, ecco, si viene portati al suicidio. Basta poco ormai, no? Ecco, questo è per un po' per inquadrare anche la situazione, insomma. Sicuramente Alessio è una persona che però ha dimostrato una tempra enorme. Eh sì, una forza non indifferente. Va sempre sostenuto, sì. Però insomma, per lui oramai purtroppo queste ritorsioni da parte delle autorità carcerarie sono abitudine quasi, insomma, nonostante si sia mosso anche spesso in termini legali, proprio ricordiamo centinaia di ricorsi alla Cassazione che lui ha fatto sul 41 bis eccetera, che hanno anche contribuito a elevare anche la condizione dei detenuti in questi gironi dell'isolamento, in questo apice insomma del sistema penitenziario italiano, continua a essere comunque vittima anche di ritorsioni violente, di persecuzioni, insomma, perché è un detenuto modello dal nostro punto di vista, nel senso che è un resistente, ecco. Sì. Certo. Bene. Vabbè, vi ringrazio, insomma, nel senso, era importante dare questo spazio, insomma, vi lascio e porgo i miei saluti, insomma, agli ascoltatori e ascoltatrici. Sicuramente, grazie a te. Scriviamo tutti ad Alessio, mi raccomando. Certo, giusto. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. What if I let's study out of a kingdom? Pagan idolatry, man, it's fucking pagan idolatry. Look around you. He lost every respect to a broken son. Honor useless. Priest or a priest, the ancient. What if kept alive without a way of creation? If he died on death from his son and son. Move your energy and God come to command. Bene, allora siamo un po' così sul finire di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. E una cosa che magari devo dire, perché prima tra i vari interventi abbiamo fatto andare delle più musiche, più dischi, senza presentare, non abbiamo avuto il tempo, ma un po' tornando così all'ascolto, durante l'intervento in sottofondo si sentiva che cantavano in italiano una band di Pordenone, Le Bambine, che è stata una band che è esistita tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Come poi invece abbiamo fatto andare due brani di una band olandese, gli Anarchrust, dall'album Progression or Decline, che era datato 1993. Mentre ora sta andando in sottofondo questa band anarcho-punk scozzese, loro sono gli Scatta, credo si dica così, dal loro album Respect, Protect, Reconnect. Quindi siamo giunti al termine della trasmissione, vi ricordo i nostri contatti, perché questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Udine. Comunque, se volete scriverci come posta elettronica, dovete intestare a Zardins Magnetics Radio, la mail a liberetutti @autistiche.org, oppure potete scriverci in sottoforma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, posta elettronica liberetutti@autistiche.org, oppure Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre questa puntata, ma anche tutte quelle scorse dei giovedì passati, potete andare a trovare in rete zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene. Inoltre domani Radiazione, che è una web radio, saremo in onda dal questo programma di oggi dalle ore 17. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con un brano, due di questi Scatta, direttamente dalla Scozia e, se non erro, da Glasgow. E loro, questo è l'album Respect, Protect, Reconnect. Ciao a tutti. Don't be lost, must all be relearned. Got to have them, I don't call at the end. Find out the time to go with them then. Build the wish, you have it then. All of the love and love, you want to call a hope, a cold love, time to move on. I'm a fool.